Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti. Vi dico subito il numero verde perché oggi gli argomenti di cui discutere penso ce ne siano diversi tra l'Eurolega e il mercato, non solo quello dell'NBA. Con me oggi, solito coach Dan Peterson naturalmente, senza di lui non si va da nessuna parte. Ciao coach. Ciao caro Mr. Sportivi, buongiorno. 800 24 00 24 per parlare con noi, ma anche oggi qui c'è un ospite che vi presentiamo con la solita follia di Franco Piantanida. Paolo, che hai in faccia? In faccia? Qui, sì, hai una specie di taglietto, sembrerebbe. Mi sono tagliato? Come? Facendomi la barba. Paolo, stamattina non hai fatto la barba. Ah, no? No. Paolo, stai bene? Sì. Barba invece se l'è fatta Paolo Bartezzaghi della Gazzetta dello Sport. Ciao Paolo, grazie. Buongiorno a tutti. Bentornato a questi microfoni. Coach, grande partita hai commentato ieri sera per Sport Italia. Assolutamente, poi prima un grande saluto a Paolo Bartezzaghi che è uno dei miei ghost writers alla Gazzetta dello Sport e quindi Paolo un abbraccio. Buongiorno coach. Assolutamente un'impresa storica dalla parte di Siena perché non solamente hanno rimontato 15 punti, ma più avanti nella partita, cioè siamo verso la fine del terzo quarto, erano sotto 62 a 47, anzi in telecronaca io ho detto questo è un peccato perché Siena non merita di perdere per 15 punti e poi hanno cominciato la rivolta e hanno vinto la partita, altro che perdere, ok, quindi veramente senza McCaleb, senza Kalkinas, senza Larinovic, ovviamente che sono fuori per infortuni, con contributi spettacolari della panchina, addirittura Mickey Loren in quintetto base, che ha dettato la personalità della partita. Tre rimbalzi in attacco nei primi 4 minuti, per dire siamo qui per lottare. Poi Aradori, veramente da cinema, la miglior partita della sua vita, e hanno battuto probabilmente la migliore squadra d'Europa, quindi niente che complimenti a Siena per l'impresa che hanno fatto. Parafrasando De Gregori, caro Paolo Bartezzaghi, è da questi particolari che si giudicano le grandi squadre, cioè quando sei in difficoltà di organico, ecco che vedi l'anima che c'è sotto la maglietta. Come sempre, Siena continua a stupirci. L'anno scorso ha fatto una stagione di emergenza vincendo la Coppa Italia con un playmaker solo, non aveva McCaleb, giocava Zizis, non avevano cambi, avevano grossi problemi. Hanno recuperato anche l'anno scorso una top 16 con 2 sconfitte in partenza ed erano in questa situazione di infortuni. Siena è così ed è per questo che è una grande e speciale squadra ed è per questo che è ancora avanti a tutti in Italia, avanti a Milano, avanti a Cantù, avanti a tutte le altre, perché ha la capacità di dare il meglio, di dare tantissimo, di dare l'insperato, sì, proprio nel momento della massima difficoltà. Ieri sera è stata la prova lampante. Sarà successo anche a te coach con la Milano piglia tutto che allenavi nei momenti di maggiore difficoltà, potevi fidarti dell'anima di quella squadra lì. Esatto, no? Se tu hai dentro il giocatore, perché Carlo e Paolo ci vogliono in una squadra 3 cose, ci vuole un leader, io avevo Mike D'Antoni, ci vuole un killer, avevo Bob McAdoo, ci vuole una figura carismatica proprio di grande personalità, avevo Dino Meneghin, loro hanno queste cose e poi gente che esce dalla panchina conoscendo il loro ruolo, sanno cosa fare, avevo Bagna, Gallinari, Poselle, loro hanno Michelore, hanno Aradore, questi giocatori qui, e hanno compiuto veramente la vittoria è stata veramente data dalla panchina, perché è venuto dentro Aradore, è stata veramente cruciale, lui ha preso 3 rimbalzi in attacco, uno più spettacolare dell'altro, ha fatto intorno a 20 di punti, cioè veramente eccezionale. E poi non voglio trascurare Zizis, che anche lui nel primo quarto 3 canestri da 3, sì, aveva 10 punti dopo un quarto, eroico lui, tutti, e anche Pianigiani ha avuto grandi istinti ieri sera, la partenza di Michelore, il feeling della partita, la squadra che non ha mai mollato, cioè proprio è stata una grande vittoria, ho detto una delle più grandi vittorie nella storia del basket, sì, di Siena, anche se uno dice non ha deciso niente, sono secondi, sono primi. Non mi interessa, è stata una grande vittoria, è stata una vittoria / messaggio. Esatto, la stagione dei messaggi, questo, non solo dei bigliettini d'auguri per Natale, ma è la stagione dei messaggi questa. Coach, invece Milano, che si è costruita, cioè che si è trovata per le mani questa grande occasione. Prima è passato di qui il nostro amico Flavio Suardi, l'ho visto molto carico in vista della trasferta di Belgrado. Secondo me, in questa Milano così difficile da leggere, non è caso di essere particolarmente ottimisti, però è indubbio che Milano si trova, non per merito suo forse, perché la vittoria sullo Charleroi è nella logica delle cose, non per merito suo, si trova per le mani una grande occasione. Assolutamente, cioè, poi in queste cose merito, non merito, sono cose che succedono in un mini campionato di 10 partite come ha disputato Milano nella prima fase della regular season, se vogliamo chiamarlo così. Quindi niente da dire, Milano ha vinto, e poi anche importante vincere 35 punti, perché erano tipo meno 36 globalmente, adesso sono meno 1, e Belgrado che era, non so, meno che ne so 11, hanno perso di diversi 15 punti ieri. E quindi ero andato ieri, quindi sono sotto loro di molti punti. Quindi Milano non deve solamente vincere 5 punti, ma anche di 4, perché se perdendo in casa di 4, come hanno fatto, vincendo di 4 lì, pari 1-1, certo, pari più 4 meno 4, però per differenza globale Milano va avanti lo stesso. Certo. Chiaro, Milano, hai detto tu perfettamente, una squadra difficilissima da leggere, ma se Milano, nonostante le difficoltà di giocare a Belgrado, non so se sarà al mitico Pioniere o a Belgrade Arena. Non si sa ancora, in effetti. Non si sa ancora. No. E quindi non importa, ci sarà il pienone della più grande tifoseria dell'Europa. E sanno cosa vanno incontro. E questa è la cosa importante. Se Milano tira fuori le sue capacità, è possibile farlo, ovviamente, perché secondo me è una buona squadra. E Sergio Scariola ha avuto 3 o 4, anche lui, ottimi messaggi. Drew Nicholas, io non voglio sentire la gente dirmi, ah sì, però Peterson ha giocato contro nessuno. Non mi interessa. I tiri che Nicholas, prima, smarcatissimo, non mi importa l'avversario, ha sbagliato, contro Charleroi ha fatto canestro. La cosa preoccupante, dico un piccolo dettaglio, ha sbagliato 2 tiri liberi, 2 su 2 una volta. Uno è stato lungo mezzo metro, hai capito? Non da lui. Quindi non è del tutto a posto, ma ottimi segni per quanto riguarda lui. Ha avuto risposte da Melli dalla panchina, Radosevic dalla panchina. Quindi ha più uomini, non solamente in quintetto base, ma gente che può farcela. Quindi è possibile. Non voglio far pronostico perché si può fare. Non si fa. Si può fare. Grazie coach, un abbraccio. Ciao ragazzi, arrivederci. Ciao. Sentiamo venerdì con Coach Dan Peterson, ci fermiamo con il traffico, poi torniamo a chiacchierare con Paolo Bartezzaghi e con voi. 800 24 00 24, c'è Pippo da Piacenza che scrive: perché Siena non prende un 4-5 valido, cioè una la forte o centro valido e va a vincere l'Eurolega? Questa è la domanda che poi girerà Paolo Bartezzaghi. E poi Carlo sottolinea la grandezza di Biella, splendente in questo campionato, 11 anni di A1 con budget ridicoli, risultati formidabili, un fenomeno da copiare. Questo è vero, fosse facile. Palla spicchi. Non a caso i Bad Religion, Los Angeles is burning, caro Paolo Bartezzaghi. Il mercato c'è di là e c'è di qua. Poi parleremo anche di Gentile, che si associa al nome di Milano, ormai è un segreto di Pulcinella, finirà lì, i tempi ancora non sono chiarissimi. È certo invece il timbro sul passaggio che ha fatto rumore anche da noi, no, vista la quantità di appassionati di basket NBA, di Chris Paul, che dopo quanto è successo una settimana fa, adesso va a Los Angeles, ma sull'altra sponda, ai Clippers con Blake Griffin. Sì, ha detto subito, è una storia molto bella, soprattutto perché c'è una rivalità all'interno della città, peraltro smisurata, di Los Angeles, per cui una rivalità anche abbastanza curiosa, ma che apre un nuovo capitolo della storia dei Clippers, sempre cosiddetti derelitti per sì. essere sempre stati i secondi, sì. qualche momento di gloria magari di per aver vinto una volta contro i Lakers, sì. allora si è sempre pensato ecco è arrivato il momento della rivalsa. Adesso effettivamente i Clippers hanno due giocatori di a livello assoluto, Blake Griffin, e adesso è arrivato Chris Paul, quindi è una squadra che sta cominciando a mettere le mani avanti su questo campionato che si è fatto tanto attendere e che adesso sembra essere già cominciato per i botti del mercato che continuano a susseguirsi, per le voci, per quello che succede, per quello che viene o smentito o che non accade, come era stato per esempio il passaggio di Paul ai Lakers. È uno di quei trasferimenti che possono segnare sicuramente una stagione, una conference, perché la conference West a questo punto assume tutto un altro aspetto. Bisogna vedere come si concluderanno le squadre, come si perfezioneranno. I Lakers per esempio sono ancora sui blocchi di partenza dopo questa gelata, hanno perso per ora Odom e non hanno preso ancora nessuno, per cui andiamo a vedere cosa succede. Quello che perde sicuramente molto è New Orleans e il nostro Marco Bellinelli, che giocava a fianco di Chris Paul. Il più forte playmaker del mondo, scusa se è poco, che ti mette la palla in mano, esatto, vedi tu. Esatto, per cui la straordinaria stagione dell'anno scorso, Bellinelli ha fatto i playoff con New Orleans, quest'anno sarà un po' più difficile raggiungerli, anche se Bellinelli da poco è stato confermato fino alla fine della stagione, per cui lui è sicuramente uno di quelli più penalizzati dall'entusiasmo attuale dei Clippers. Infatti tra l'altro stamattina leggevo che Chris Paul ha subito detto qualcosa tipo: vorrei vedere a Los Angeles la gente in giro con la maglietta dei Clippers, e in effetti è raro vedere della gente con la maglietta dei Clippers, è un po' più probabile vederla con la maglietta dei Lakers. Marco Roma, poi Giovanni da Bologna, 800 24 00 24, mi fa molto piacere come sempre la presenza di chi vuole parlare con noi. Dunque Marco, buongiorno. Dica. Volevo fare una riflessione e poi una domanda diretta. Io sono un appassionato di pallacanestro che soffre nel vedere il basket in Italia un pochino relegato nei trafiletti dei principali quotidiani, e quindi mi chiedo, l'NBA spedisce Chris Paul a Los Angeles dando un messaggio chiaro: la Lega e il sistema economico si regge solo se le loro principali star giocano nei mercati principali, mi sembra evidente, quindi Piazza Anthony a New York, Rose per il draft a Chicago, e abbiamo Paul a Los Angeles. Di qua in Italia, nello stesso sistema, ovviamente con una scala molto diversa e anche con una struttura molto diversa, cosa stiamo facendo per cercare di coinvolgere i mercati principali? Parlo di Firenze, Torino, Napoli, Palermo, perché è ovvio che se un sistema ben strutturato come l'NBA si regge solo se coinvolge i mercati principali, penso che ovviamente anche in Italia, a maggior ragione in Italia, siano queste piazze principali. Quanti che anni ha? Posso chiederle quanti anni ha lei, Marco? Sì, 35. 35, quindi è da quando era piccolo, da quando eravamo piccoli che sentiamo comunque questi discorsi, perché sono discorsi che si leggevano sulle colonne di giganti del basket e super basket negli anni 70. Perché è così? Perché c'è questa eterna ricerca della metropoli, no? Perché è chiaro che la metropoli ti dà numeri, ti dà visibilità. Non dobbiamo dimenticare però che il basket, soprattutto da noi, è anche tradizione, quindi ci sono delle enclave storiche e la culla del basket è quella, perché puoi piantare le radici in città che non hanno questo tipo di tradizione, è sempre un'operazione da un lato difficile e dall'altra quasi certamente destinata al fallimento, Paolo. Abbiamo gli esempi anche di Roma e Milano, che comunque nella tradizione che hanno comunque hanno sempre avuto un pubblico che ha risposto solo in occasioni di grandi successi, certo, o di grandi eventi. La grande finale di Roma-Milano nel 1983, ne parliamo ancora, e sono passati appunto 28 anni, ma è forse irripetibile, perché è difficile avere due squadre forti in quel momento, due imprenditori che hanno voglia di mettere denaro per costruire le squadre forti e avere poi le squadre che effettivamente siano forti e arrivino in finale. C'è stato il Messaggero negli anni 90 che non ha ripercorso quella strada. Il ragionamento teorico che fa il nostro amico ascoltatore è giustissimo, ma perché non ci arriviamo? Ma anche perché a Torino, dove ci sono per esempio degli impianti straordinari, migliori d'Italia, per ora non c'è nessuno che ci sta mettendo il denaro per fare una squadra forte. Torino sta crescendo, è nei dilettanti, piano piano magari ci arriverà, però da una parte a Milano c'è Armani, a Siena abbiamo la Monte dei Paschi, il Monte dei Paschi di Siena. Mm. Per cui, insomma, per avere una squadra forte ci vuole una struttura alle spalle molto forte. Non si guadagna con il basket. Sì, non, si può aspettare che arrivi l'arabo nella nostra pallacanestro e dica voglio Palermo campione d'Italia del basket. Questa è semplicemente una fantasia. Infatti, è comunque invece un messaggio che, per esempio, l'Europa ha dato, è stato ripescare Milano in Eurolega quest'anno grazie a una wild card, appunto per avere una piazza forte e avere una società forte, perché dietro c'è un imprenditore come Giorgio Armani. Questo è stato un messaggio che ha dato l'Eurolega, che fa le proprie scelte autonomamente. Però certo, a livello italiano la logica non può essere quella, o non può essere solo quella, ecco. Chiaro. Ad esempio, in Italia il problema è recuperare piazze storiche. Recuperare piazze storiche, cosa che è accaduta con Venezia, che era accaduta con Brindisi l'anno scorso, e ti ricordi questa cavalcata che si è conclusa subito al piano di sopra, cosa che io mi auguro, e così coinvolgo anche Giovanni, possa riaccadere con Bologna, che sta vivendo un momento, che sta vivendo anni molto grigi. Giovanni, buonasera, buongiorno. Buonasera. Dica. Durissima per noi di Bologna. Ci dobbiamo trasferire a Siena se vogliamo vedere del bel basket, purtroppo. Beh, adesso non esageriamo. No, non esageriamo. Ieri sera sicuramente io ero a Siena, abbiamo visto una partita che è stata veramente una meraviglia, e direi che possiamo anche essere orgogliosi di avere dei giocatori italiani che possono competere tranquillamente in Eurolega, sia per quanto riguarda Radori, e sinceramente ho visto anche particolarmente bene Thomas Ress. Io non so se coach Peterson può essere d'accordo, però volevo fare due semplici domande. Sapere innanzitutto se per caso poteva essere stato lo stoppone di Moss. Come si chiama? Moss su Boniface Ndong, là che ha scatenato tutta la ci vuole sempre una scintilla. Per ogni grande rimonta esiste una scintilla. Credo che, secondo il mio punto di vista, potrebbe essere stata quella la scintilla che ha scatenato il tutto. E mi sembra, non so, a differenza degli altri anni, che Siena si sia preparata non per l'esplosione subito iniziale, ma per diventare più competitiva nel tempo più lungo, insomma. Guardi, per essere competitiva dall'inizio dell'anno in poi. Ecco. Sentiamo cosa dice Paolo, però insomma, ovviamente non si è strutturata per avere problemi di infortuni di questo tipo, immaginato problemi di infortuni di questo tipo. Poi è partita anche con l'handicap di aver scelto un giocatore come Summers, su cui ha puntato molto dal punto di vista tattico, per avere un uomo che potesse coprire due ruoli diversi, e poi è tornata indietro rendendosi conto che non era la persona giusta. Quindi più che scelta si è adattata. Come al solito Siena è bravissima a programmare ed è altrettanto brava a riadattarsi durante la stagione, sistemando le cose che possono succedere. Normalmente, scegliendo bene i giocatori, devono solo adattarsi agli infortuni. Questa volta hanno dovuto anche adattarsi a una scelta rivelatasi non giusta, per cui è difficile pensare che Siena possa dire adesso tiriamo un po' il freno per arrivare bene al momento in cui conta, cioè ad aprile, maggio, eccetera eccetera. Quel che è vero è che la storia insegna che Siena ha dei momenti di calo e in genere coincidono fatalmente con gennaio, febbraio. Non a caso alcune Coppa Italia le ha anche lasciate indietro, certo. L'anno scorso l'ha vinta facendo molta fatica, ma anche sempre per problemi di infortuni, perché poi deve giustamente puntare sul momento dei top 16, playoff e eventuale Final Four di Eurolega. Quest'anno ha maggior ragione, perché quest'anno ci ricolleghiamo forse a una domanda che era stata fatta precedentemente sul fatto Siena può prendere un'ala forte che per puntare all'Eurolega, e Siena l'aveva presa l'ala forte che poteva essere o Summers o Anderson, Anderson, cioè giocatori che sotto canestro potevano fare ancora di più la differenza, ma in questo momento le manca Lavrinovic, o Lavrinovic che si vuole. Per cui insomma se Lavrinovic cominciano ad essere un po' tanti anni, un po' tante stagioni che mostra questi segni di logorio anche piuttosto preoccupanti, perché però è classico devo fermarmi per la borsa. Palla spicchi. Sempre con me Paolo Bartezzacchi, Gazzetta dello Sport. Io non dimentico il fatto che siamo collegati anche su Facebook, che ci sono un sacco di vostri messaggi sulla nostra pagina di Palla Spicchi, la maggior parte dei quali riguarda quello che potrebbe essere il trasferimento dell'inverno, non nel basket americano ma in quello italiano. C'è Alessandro Gentile che tra l'altro su Twitter ha scritto, Gentile, che sta per passare da Treviso a Milano. A Treviso, Gentile su Twitter ha scritto: è duro lasciare posti cui sei veramente affezionato, Treviso è un posto speciale, è ora di guardare avanti. Paolo. Lui gioca domani contro Sassari e poi saluterà gli amici della Benetton e verrà a Milano. La cosa oramai è stata stabilita, non è stata ufficializzata, anche perché appunto ha questa partita davanti. Per Treviso è anche importante, perché ogni partita diventa un mattoncino per costruire una stagione che è un po' in difficoltà per premesse sia societarie che tecniche, visto che sta perdendo giocatori. E quindi Gentile verrà a Milano, prenderà idealmente, ma solo idealmente, il posto di Gallinari, perché sarà un italiano che entrerà nel roster, ma come ruolo è un ruolo diverso. Ovviamente il peso del giocatore è un peso diverso, perché ricordiamolo sempre, ha appena compiuto 19 anni. Certo. Cioè, per quanto sia un talento notevolissimo e una mentalità già molto ben formata dal punto di vista del sapere cosa vuole da un campo di pallacanestro, però ha pur sempre 19 anni, per cui sarà complicato mettergli sulle spalle, certo, delle responsabilità che può avere le spalle per sopportare, ma magari non adesso. Intanto c'è però quel signore cui la squadra la stanno smontando e che è un mio amico carissimo, Sasha Giorgi. Ciao Sasha. Ciao Carlo. Ciao Sasha. Partono tutti, Sasha. Moore, Scalabrin, Jeff Adrien, lascia Treviso, ha firmato con gli Houston Rockets. Ora Gentile, tu come fai? Ma sai, prima cosa, l'NBA ha cominciato, tante squadre hanno cominciato con 8-9 giocatori nel loro roster, no? Quindi hanno bisogno dei giocatori che conoscono in qualche maniera, per avere il numero di corpi, anche per, brutto dirlo, per cominciare la stagione. E perciò hanno offerto questi un paio di contratti ai nostri ragazzi. Io sono molto contento per loro e gli auguro tutto il bene, però secondo me non sono ancora pronti per la NBA, però questo è un altro discorso, questo già tocca a loro squadre. Beh, Scalabrini era anche troppo pronto, lui è stata una delusione vera come comportamento, no? Sì, assolutamente sì, però ho già parlato tanto di lui, non vorrei neanche spendere una parola in più. Lui ha portato una etica di lavoro pazzesca, si è impegnato in al massimo ogni allenamento fino all'ultimo, poi ha fatto questa scelta secondo me sbagliatissima, dove io con ho cercato anche di anticipare questa scelta con un pranzo settimana prima, spiegandogli che è lasciando anche qualcosa in più ai ragazzi giovani, a questa società che gli ha dato l'opportunità di giocare e farsi vedere, perché ricordiamoci che lui non ha avuto neanche una offerta dall'Europa da nessuna parte, Scalabrini, e poi ci è stato praticamente spinto da parte dell'agenzia americana che è interessata a comprare le quote del Benetton Treviso, quindi non dico ricatto, ma più o meno è stata influenzata la nostra scelta di prenderlo. Praticamente Scalabrini ci ha preso due posti, due per due europei, sì, perché avremmo potuto costruire una squadra con due europei, e adesso partendo uno non si avrebbe sentito questa, certo, cosa qua. Quindi ci sentiamo veramente presi in giro da parte della sua agenzia e da parte di lui. Secondo me ha fatto un errore grosso non aver disputato l'ultima gara e aiutato i ragazzi, perché si sentivano tutti un po' traditi, certo, io compreso, però è la scelta personale di un personaggio che alla fine non siamo neanche sicuri cos'è, quello Scalabrini dall'inizio, tutto generoso, con una disponibilità enorme, o questo è le ultime due o tre settimane condizionato tantissimo da parte di sua moglie di dover tornare lì e avanti. Senti Sasha, ma Gentile invece è pronto per Milano? Dile. È pronto per Milano? Ma sì, Gentile è pronto. Mi dispiace tanto che lui vada via, lo accetto con tanta amarezza, perché mi dispiace non poter continuare con lui come giocatore, come ragazzo, o poter influire sulla sua crescita, capisco il momento sia nostro, la società, sia suo, da giocatore sia di Milano, e lo accetto limitandomi a... scusa un attimo. Pagliato un attimo, Sasha Giorgio, si stava spiegando, dice, è pronto per Milano, certo mi dispiace molto per quello che sta succedendo, comprensibile, no Paolo? Ma ragazzo, vabbè, pronto per Milano, dipende cosa vuol dire, voi sapete che non è facile giocare a Milano, sì. Per niente, sono tanti che hanno sentito Milano, hanno sentito Olimpia, hanno sentito il Forum, hanno sentito le esigenze del pubblico che ha visto tanti campioni. Ne ha bruciati Milano. Ne ha bruciati tanti, ma si sono bruciati da soli, perché senza la possibilità di reagire e di farsi valere di quello che veramente sono. Vediamo in questo momento nettamente in difficoltà un loro giocatore principale dal quintetto, no? Drew Nicholas. Certo. Certo. E poi anche magari anche qualcun altro che hanno firmato con tanto glamore, tanto non so che cosa, e alla fine Milano è quella, nonostante i risultati, loro vogliono che i giocatori trasmettono, e anche il gioco stesso, anche la squadra trasmette le emozioni forti verso i spalti. Certo, cosa che fino adesso succede. Non è successa tantissimo fino a questo punto. Paolo, vuoi chiedere una cosa a Sasha? Sì, no, c'è molta curiosità, oltre che vedere quale sarà l'impatto di Gentile a Milano, anche di vedere che cosa farà Treviso in questo momento, che ha così tanti giocatori da sostituire. Sì. Sasha, in che direzione vi state cominciando a muovere? Ma noi, anche prima di queste partenze, intanto abbiamo firmato una grandissima persona che mi piace molto averlo in squadra, come Joby Thomas. Una disponibilità enorme, una voglia rara di competere, stare qui e lottare, è quello che ci voleva per noi, un po' di esperienza, non solo la qualità, diciamo, cestistica, e Giovi lo sta portando a tanta, perché io ho una squadra molto giovane, una squadra che ha bisogno di crescere, di lottare, di... soprattutto di crescere, di imparare la pallacanestro competitiva, la pallacanestro che è quella che, non so, prediligo io. Non puoi lasciarti andare o prendere una pausa neanche un secondo in allenamento, figurati un giorno o una partita. E ci stiamo muovendo anche le ultime due settimane per portare qui uno o due giocatori nella posizione di 4 e 5, e nei prossimi giorni riusciremo a farlo. Per varie ragioni non siamo riusciti a completare questa cosa qua. Se l'avessimo fatto, in questo momento saremmo stati nella posizione normale, con un giocatore che parte, certo. Magari si sapeva, anticipando questa nostra cosa, però purtroppo un giocatore che ci interessa tanto, che ormai è anche sulla bocca di tutti, è Ben Ortner, alcune cose contrattuali sue. Senti, ma io leggevo, mi dicevano prima che Mike Hall ha scritto delle cose su Twitter, è possibile? Chi? Mike Hall. Vabbè, lui usa queste reti di comunicazione. Fin troppo, eh? Molto, fin troppo, ti dico secco, no. Perché non io ti credo. Come stava in campo mentre giocava a Milano, quindi può scrivere le email al signor Monti o a chi vuole, anche nel livello personale, Twitter, Facebook, queste cose lasciamole lì dove sono, eh? Ah, ma infatti è quello che ho detto io, me l'hanno detto, ma non so, conoscendo un po' Sasha non penso sia particolarmente propenso a questo tipo di giocatore. Ti lascio andare a lavorare, vecchio mio, devi fare allenamento. Ciao. Grazie, Sasha. Carlo. Ciao. Ti mando un tweet, Carlo, dopo, poi ti dico tutto quello che si fa, eh? Ok, Sasha. Così avrete anche voi le informazioni giuste e sapete la tattica di Benetton Treviso, eh? Magari anche via Facebook mando anche qualche disegno e siamo a posto, eh? Grazie Sasha. Un abbraccio a tutti. Ciao Sasha. Grazie a Sasha Giorgevic, ti è piaciuto? Direi che era. Non tradisce mai Giorgevic. Ma Michael mi sarebbe sembrato una scelta un po' curiosa, conoscendo un pelo questo signore. No, è chiaro che ti vedi, cioè già comunque Treviso è in una stagione di grande difficoltà, ti vedi smontare la squadra un pezzo dopo l'altro, tu sei l'allenatore di questa squadra. Beh, insomma. No, è un minimo di spazzatura ci sta. No, non c'è dubbio, anche perché poi la modalità appunto di alcuni AD come quello di Scalabrini non è stata sicuramente, non ha agevolato questa transizione. È un peccato vedere che una società come Treviso, come la Benetton, sia in questo momento in queste difficoltà, soprattutto che non abbia ancora un futuro certo. A loro manca ancora socio per poter rilanciare un futuro che potrebbe comunque essere discreto, perché comunque Djordjevic, oltre a essere un buon allenatore, è anche una persona capace di portare avanti certi progetti, soprattutto con i giovani. E infatti a Gentile stava facendo anche bene lavorare con uno come Djordjevic. Djordjevic aveva lanciato in quintetto base Gallinari qua a Milano e gli aveva dato minuti, gli aveva dato fiducia. Gallinari aveva già un notevole talento, per carità, però si è trovato nella situazione giusta per poterlo esprimere. E anche Gentile, che comunque l'anno scorso con Repes ha avuto dei momenti buoni e dei momenti meno buoni, in questo momento comunque sta crescendo. L'ha sempre detto, datemi un giovane bravo, io lo faccio giocare. È molto serbo da questo punto di vista, è molto poco italiano, benché parli come sempre un italiano eccellente, però ha una mentalità diversa dalla nostra. Noi vediamo altri giovani italiani molto promettenti, molto buoni, fare della gran panchina per demerito loro anche, non solo per mentalità dell'allenatore. Ma è vero che quando hai in mano un giocatore come Gentile o Gallinari, e sono situazioni assolutamente straordinarie, devi anche sapere cosa dirgli e come muoverlo. È un rapporto un po' ribaltato. Alcuni allenatori ti dicono: io ti faccio giocare se il posto te lo meriti. Esatto. Altri ti dicono: io il posto te lo do, vedi di meritartelo. Esatto. E quindi mi sembra una prospettiva radicalmente diversa. Palla spicchi. Due tuoi omonimi, caro Paolo Bartezzaghi, uno da Siena e l'altro da Venezia. Paolo da Siena, buongiorno. Salve a tutti, buongiorno. Dica. Nulla, io vorrei entrare un po' in polemica con l'ascoltatore di Roma, Marco, che proponeva di spostare i migliori giocatori della Serie A nei centri più importanti. Ovviamente si percepisce un po' di fastidio nei confronti di questo fenomeno Siena, che da 7-8 anni tiene in scacco il movimento. Io credo che sia una prospettiva assolutamente sbagliata. Lo dico da appassionato più che da tifoso della Menzana, ovviamente, perché credo che sia impossibile predicare nel deserto e esportare la passione per uno sport laddove non c'è, evidentemente. No, anche Armani di recente si è un po' lamentato parlando di Eurolega, sognando grandi scontri di Eurolega invece che stigmatizzando un po' il fatto che magari in Serie A Milano deve andare a giocare in città piccole come Teramo. Poi l'altra sera però a Milano, una partita decisiva per il cammino della squadra nell'Eurolega, c'erano 2000 persone, il forum mezzo vuoto. Ieri sera a Siena, una partita che non contava niente, eravamo in 6.000. Certo, quindi, Paolo, però mi sembra anche in qualche modo ingeneroso paragonare i due fenomeni. Milano proprio in questa stagione ha totalizzato più spettatori probabilmente che nelle ultime tre messe insieme, vuoi il fenomeno Gallinari, vuoi comunque una squadra competitiva. Nessuno vuol togliere nulla, nemmeno l'ascoltatore di prima, io credo, a Siena. No, si tratta soltanto di capire perché nel campionato italiano esiste un'egemonia che piace solo ai senesi, che onestamente come piaceva solo ai milanesi l'egemonia degli anni 80 e della Virtus negli anni 90, cioè tutte le egemonie non piacciono. Non sono funzionali allo sviluppo, alla spettacolarità di qualcosa, cioè come leggere un libro e sapere già come va a finire tutte le volte, tutti gli anni. Nessuno fa il tifo contro Siena, si fa il tifo perché le altre diventino quantomeno minimamente competitive. Paolo da Venezia, buonasera. Sì, buongiorno, complimenti per come conduce la trasmissione. Grazie. Dunque, io andavo a vedere gli Ubiratan alla Misericordia, poi Dali Pagic e gli Spencer Haywood all'Arsenale. A parte la nostalgia, ma l'Arsenale, perché non si gioca più all'Arsenale? Bisogna andare a Mestre, poi a Treviso, al di là di retrocessioni, fallimenti, ma a livello societario cosa è successo alla Reier e come mai siamo in queste condizioni, al di là del fatto che comunque stiamo facendo un buon campionato? Beh, mi sembra sia in splendide condizioni la Reier, no? Alla Reier è successo ora, ma sa, la storia recente, lei ha parlato di anni piuttosto lontani. storia recente dimostrano, Paolo, che anche club come quelle di Bologna, come la Scavolini, hanno avuto le loro forti cabine. Venezia non gioca, deve giocare a Treviso perché non ha pronto il Palasport, ci sono oramai dei minimi da rispettare per giocare in Serie A e per ora il Palasport di il Taliercio non si è ancora adattato per, no? E dell'Arsenale avete notizie? No, personalmente no. Non ho notizie. Quello che è vero è che comunque Venezia si è anche trovata in contropiede quest'anno rispetto al proprio programma di Serie A, visto che è stata promossa a pochi giorni dall'inizio del campionato. Quindi è una società che comunque era una società ambiziosa, però aveva un percorso di crescita che è stato accelerato dagli eventi. Quindi sicuramente c'è molta passione, tanto è vero che c'è più gente a vedere Venezia a Treviso che di Treviso a vedere Treviso. Per cui c'è molta passione e la squadra è abbastanza solida per dare delle soddisfazioni come le ha date fino adesso, quindi io mi terrei comunque buona questa cosa. Poi è vero che Venezia è una di queste grandi piazze di cui si è parlato, di grandissima tradizione, e che avrebbe bisogno di consolidarsi a un buon livello per diventare una delle piazze del basket italiano, senza nulla togliere appunto a Siena o anche a Cantù, senza andare troppo lontano, che è una cittadina della Brianza ma che gioca in Eurolega benché non a Cantù e che fa le finali scudetto. Il basket è anche questo. Le piazze storiche sono quelle, sono la spina dorsale della nostra pallacanestro, più che andare alla ricerca di metropoli improbabili. Abbiamo il tempo per un graffito di Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. E lo vorrei su questa storia che è cominciata una settimana fa ed è finita solo ora, relativa a Chris Paul. Tu una settimana fa dicevi è successo qualcosa che lascerà il segno per molto tempo. Questo passaggio di Chris Paul ai Clippers lascerà il segno per quanto? Lascerà il segno innanzitutto? Beh, il segno tecnico non lo sappiamo, non lo possiamo sapere perché è una squadra assemblata 2 ore fa, che non ha ancora messo piede in campo, che è molto eccitante, molto intrigante, non so quanto sia competitiva rispetto al massimo livello, sicuramente è una squadra da 60% di vittorie, poi se da anche 70 e 80 è da fare anche strada nei playoff, non lo so. Lascia il segno perché ovviamente il fatto che i Lakers avessero già trovato l'accordo e si chiamano Lakers, e poi questo accordo si è sfumato e poi si è avvenuto il passaggio ai Clippers, anche perché non c'era più la possibilità di tenerlo a New Orleans, di certo lascia il segno. Gentile a Milano. Gentile a Milano è sicuramente un giocatore che ha, lo definirei così, una chance di essere speciale. Non possiamo verificare se riuscirà a usare quella chance per intero ogni minuto, ogni tiro, ogni scivolamento e ogni partita. Diciamo che per lui venire a Milano è un passaggio importante, perché se vuole provare a diventare speciale deve dimostrare di esserlo tutti i giorni in allenamento e poi o la domenica o il mercoledì o il giovedì o il sabato o quando gioca in partita contro quelli di un certo livello, che è più facile, senza offesa per nessuno, trovare a Milano che non in un altro posto. Grazie Flavio, sentiamo domenica. A voi. Ciao. Grazie a Flavio Tranquillo e ringrazio anche te, Paolo. Grazie a voi. Torna a trovarci presto, tanto il basket a Natale non si ferma, neanche Palaspicchi per la verità, perché ogni venerdì saremo qui con voi a farvi compagnia. Intanto andiamo verso quest'ultima frontiera per Milano. Sono molto curioso di vedere se supererà l'esame Pionier. Tu cosa dici? Pronostico secco però prima di chiudere. Secondo me ce la fa. Ce la fa Milano? Sì, secondo me ce la fa. Verificheremo tra una settimana. Grazie a Paolo Bartezzaghi della Gazzetta dello Sport, Franco Piantanida in redazione, Pietro Lacorte in regia. Ci sentiamo ovviamente domani pomeriggio alle 5, dalle 5 alle 6 con lo sport, e poi domenica con il solito programma 4:30, 7 per il calcio, 8:30, 9 per il basket, di sera naturalmente.